E sono in moda con Emma, arriverà e arriverà anche il nostro Flavio Alagia di nonsoloturisti.it qui in diretta con me, e lui è già arrivato, è presente. Buonasera, ciao Flavio, ben ritrovato. Ciao per te, buonasera a tutti. Ma io volevo subito partire dalla domanda: dove ti trovi? Mi trovo naturalmente nella splendida, incantevole, ma meravigliosa Casta in Goffredo, in provincia di Mantova. Quindi sei ritornato, sì, Natale ormai. Sei ritornato nella tua città di residenza, no? Nel posto che mi vede più frequentemente ritornare dai miei lunghi viaggi. Com'è andata la ti sei risvegliato lì, immagino? Avevi viaggiato tutta la notte e ti sei svegliato lì a Castello. Tu prima hai detto se avevo preso l'aereo, ovviamente no, perché l'aereo, come tutti sanno, è un mezzo pericolosissimo in cui non nutro nessuna fiducia. Ho preso delle comodissime autolinee che collegano il nostro meridione con le principali città del nord, nel mio caso della ridente Castro Villari. Sono finito in 11 ore comode a Parma. A Parma c'è un bel trenino che è diretto a Brescia, dove io scendo metà strada e arrivo alla mia splendida Casta in Goffredo, che tra i mille pregi che ha non è quello di essere seguita da molti mezzi pubblici, dal momento che due autobus al giorno passano, e se non becchi quelli devi o far venire a prendere oppure fare la scalata tipo marcia nella pianura padana in mezzo alla nebbia. Ok, ma l'argomento di questa sera è un argomento che comunque stiamo per trattare, naturalmente, sul terremoto che sta affliggendo il Nepal. Ma raccontaci un po' tu meglio questa situazione, Flavio. Sì, è impossibile purtroppo in questi giorni non dedicare almeno un pensiero ogni tanto a questa terribile tragedia che si è abbattuta su una delle regioni montuose più, non solo più incantevoli, più belle naturalmente, ma anche più celebrate, più sognate e raccontate. Il Nepal, questa striscia di terra relativamente piccola che si incastra tra i due giganti, tra l'India e la Cina, una terra quasi esclusivamente montuosa, a parte una sottile striscia pineggiante sul confine con l'India, ma famosa soprattutto per le sue montagne, famosa per ospitare 8 delle 10 cime più alte al mondo, 8 cime che superano gli 8.000 metri, tra cui ovviamente l'Everest, incuneato nella magnifica e famosissima catena dell'Himalaya. È una terra che anche noi abbiamo avuto il piacere e la fortuna di raccontare, ma è una terra che adesso salta la cronaca proprio per questo tragico motivo. 25 aprile, mentre noi, come raccontavamo l'altra volta, festeggiavamo la liberazione nei vari e variegati modi che avevamo a disposizione con l'Italia, due scosse si sono battute su questo lembo di terra relativamente piccolo, uno di magnitudo 7,8, l'altro 6,6. Più o meno equidistanti dalla capitale Kathmandu, che si è stata spostata da questo violentissimo terremoto addirittura di 3 metri. Immagino un'intera città ricollocata su queste vibrazioni del suolo terrestre. 7,8 è una cifra importante, perché la scala Richter, che arriva fino a 10, già considerata panico, pericolo di morte negli edifici, ma è proprio la connotazione del territorio nepalese che le ha rese veramente devastanti. Qua parliamo di una popolazione che vive soprattutto in piccole vallate e pendii rocciosi, in cui a malapena arriva elettricità e acqua, in cui le vie di comunicazione sono molto limitate, anche le comunicazioni terrestri digitali sono molto difficoltose. Infatti adesso già la conta ufficiale è molto drammatica, si parla di 4.600 morti, 9.000 ferite, ma è un dato che è quasi inevitabilmente destinato a salire, perché in questi giorni si cerca anche soltanto di ripristinare le comunicazioni con i vari villaggi. Quindi è una situazione già drammatica, ma che promette ancora peggio. Sì, è una situazione veramente difficile. È drastica, ma anche per i nostri connazionali che si trovano lì ed erano lì per scalare il famoso Everest, se non vado errato, no? Ovviamente tante erano le spedizioni, tanti i gruppi sia sportivi che turistici, ma anche di alpinisti e vari operatori di vario genere impegnati nelle attività più varie. C'è appunto questa difficile collocazione del Nepal, fa sì che in continuazione ogni giorno ci siano delle operazioni per portare merci, comunicazioni, ed è quindi ovvio che fossero molto molto esposti durante durante queste scosse. Ma sono anche le risorse strutturali ad essere state gravemente danneggiate. L'UNICEF parla di 950.000 bambini a rischio di denutrizione. Ricordo che il Nepal ha una popolazione di soltanto 26 milioni di abitanti, quindi già parliamo di numeri impressionanti. Insomma, numeri assolutamente impressionanti. A rischio di introduzione perché naturalmente anche le riserve di cibo e soprattutto di acqua potabile stanno progressivamente diminuendo, e anche a causa della mancanza del mancato ripristino ancora delle vie di comunicazione. Ovviamente una situazione resa ancora più grave dal fatto che il Nepal è una popolazione veramente povera, ma che fino a sabato viveva con una relativa serenità, non ha assolutamente gli strumenti né i mezzi per difendersi da questi cataclismi, ma neanche per affrontarli una volta che si abbattono. Infatti, Flavio, ti interrompo un attimo, ci ascoltiamo un brano e poi ritorniamo di nuovo perché l'argomento è veramente ricco. Maroon 5 con Sugar qui su Radio Stonata, e ritorniamo ancora col nostro Flavio Alagia di nonsoloturisti.it. Con lui stiamo affrontando il terribile sisma che si è abbattuto sul stato del Nepal, e Flavio ci stava facendo un po' la descrizione di quello che erano i danni e la situazione, e ci stavi anche parlando della situazione dei nostri italiani lì. Tante sono le testimonianze ovviamente che si seguono in questi giorni, sia sulla carta stampata che in rete. Una delle più vivide che ho incontrato è quella di Simone Moro, alpinista e aviatore bergamasco, che era proprio da pochissimo tornato anche lui dal Nepal, dove fa spesso delle spedizioni che poi racconta anche sul suo blog. E lui diceva proprio questo, che oltre ad essere un territorio molto povero, una popolazione povera, manca anche delle strutture, dei mezzi di soccorso necessari. Parlava di soltanto due compagnie di elicotteri privati, che ovviamente si muovono soltanto dietro la dovuta commissione, diciamo, e i pochi mezzi militari non sono preparati, non sono né attrezzati né addestrati per questo genere di missioni umanitarie, e risulta quindi ancora più necessario e vitale il cordoglio umanitario che si sta creando a livello internazionale in questi giorni. Cordoglio senza nulla togliere dalle persone che si stanno impegnando, che però viene alimentato anche dal fatto che tra le persone coinvolte ci sono anche molti occidentali. Purtroppo notiamo spesso, no, anche in questi giorni molto drammatici in tante regioni del mondo, che spesso le vittime hanno un valore diverso a seconda della provenienza della loro nazionalità. È un discorso che soprattutto nel sistema dei media, della comunicazione, ha un peso effettivo, reale, perché difficile trasportare una notizia che non abbia un coinvolgimento effettivo nella popolazione in cui viene diretta. Ci sono molte vittime internazionali, dicevamo, ci sono anche purtroppo delle vittime italiane, in particolare si parla di 4 alpinisti, e sempre raccogliendo le testimonianze, addirittura due di questi, che si chiamano Marco Poyer e Renzo Benedetti, sono stati sorpresi dal terremoto proprio mentre nel corso di una deviazione dalla loro spedizione portavano dei medicinali a un'anziana signora che viveva in una zona particolarmente remota del parco di Lantang, che è la riserva naturale che si estende a nord del paese. Ma altre vittime, ad esempio, c'è il manager di Google, Dan Fredenburg, che con i suoi colleghi l'italiano Michele Battelli e il tedesco Florian Nagel si stava proprio occupando di un'operazione, di un progetto mediatico di Google in questi territori, quando il terremoto ha completamente spazzato via la loro base e purtroppo causato la morte del giovane manager. Ci sono anche 30 persone ancora intrappolate, a livello le persone intrappolate probabilmente sono ancora migliaia, ma in particolare si parla di 30 persone intrappolate in quello che è chiamato l'ice ball, cioè questa spaccatura sul versante nepalese dell'Everest, molto molto difficile da raggiungere, uno dei luoghi pericolosi, più pericolosi al mondo per quel che riguarda l'alpinismo, che sono così intrappolati in questa spaccatura che è stato ancora impossibile anche soltanto raggiungerli, e della loro presenza si sa soltanto perché alcune spedizioni di soccorso hanno sentito le voci che chiedevano aiuto, quindi una situazione ancora assolutamente drammatica. Infatti, quello che mi preme aggiungere solamente prima di chiudere, Beppe, è l'intervento appunto internazionale che si è mobilitato in questi giorni. Tante sono le organizzazioni, tante le associazioni che in vario titolo, in vario modo si si sono mobilitate, c'è anche una raccolta fondi su Facebook, tanto per citare una delle più eclatanti. In Italia naturalmente abbiamo la Caritas, Croce Rossa, CESVI, tutti enti a cui ci si può rivolgere se qualcuno vuole dare un suo contributo. Io tra tanti ne ho scelti uno che abbiamo anche indicato sulla nostra pagina Facebook di Non Solo Turisti, che è Charity Water. L'ho scelta perché è una organizzazione relativamente piccola, molto specifica, molto specializzata proprio sull'apporto, sì, sul ripristino dei canali di acqua potabile. Dicevamo appunto che sono le riserve si stanno esaurendo, anche quelle in Nepal, tra le zone disastrate, tra le zone colpite dal terremoto. Quindi una società, un'organizzazione piccola, ben insediata da diversi anni ormai sul territorio, la cui campagna è attivata proprio in questi giorni, rivolgerà il 100% del ricavato, delle somme raccolte proprio per il Nepal, proprio per questa situazione. Okay. Charity 2. Water è proprio il nome dell'associazione. Che volesse capire, scoprire come agisce o come contribuire, può trovare l'indirizzo esatto sulla nostra pagina Facebook. E sulla mia pagina Facebook, e tra poco lo twitteremo anche per gli amici che ci seguono su @radiostonata. Grazie Flavio, e ci sentiamo giovedì. Cioè, sei stato come al solito fantastico anche in queste situazioni. Grazie a te Beppe, grazie a tutti quanti, buona serata, a giovedì. Ciao.